sono le 13. GR24, il sole 24 ore. La Concordia in bilico, interrotti i soccorsi al Giglio, l'inchiesta potrebbe allargarsi ad altri indagati. Il procuratore Radio 24 dice Schettino scellerato potrebbe sottrarsi alle sue responsabilità. Monti a Londra, convincerò i mercati che l'Italia è solida, blitz degli indignati al Ministero dell'Economia. Taxisti riuniti al Circo Massimo promettono sarà l'inferno, va avanti la trattativa. Il premier ungherese sfida l'Europa, parlerà a Strasburgo per difendere la sua posizione. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. La nave Concordia è sempre più inclinata, sempre più rischioso che finisca in un baratro, così questa mattina le ricerche nello scavo sono state sospese e sempre più si teme anche il disastro ambientale. Su questo fronte è davvero partita ormai una corsa contro il tempo. Allora andiamo subito all'Isola del Giglio da Raffaella Calandra. Sì, buongiorno. Decine di nuovi mezzi di soccorso, decine di nuove personale, decine di camion di viveri e decine di lacrime. Il traghetto appena attraccato qui sull'isola del Giglio, in questo scoglio di terra su cui il mondo intero ora sta accendendo i riflettori, scarica strumenti di ogni genere per intensificare le operazioni intorno alla Concordia, ma scarica anche l'angoscia dei familiari dei dispersi. I parenti di alcuni dei 22 nomi che ancora mancano all'appello sono infatti appena entrati in questo spicchio di porto divenuto l'unità di crisi, scortati, tra loro anche i familiari della signora peruviana che ancora si cerca, insieme ai 12 tedeschi, insieme alla coppia di americani e i francesi, insieme ai 6 italiani. Gli amici del musicista di Alberobello disperso hanno disseminato per le strade qui del Giglio la sua foto in cerca di informazione. Difficilmente però potranno riceverne a breve perché, come anticipavi, le ricerche oggi sono state nuovamente interrotte dopo la rotazione della Concordia, nuovamente registrata dopo una notte intera di lavoro all'interno della pancia sommersa della nave. Procedono invece sulla banchina, come forse sentite i rumori in sottofondo, con una enorme gru le operazioni per preparare la piattaforma arrivata nella notte, che servirà invece per lo svuotamento del serbatoio della Concordia, pieno, come ricordiamo, di 2.000 tonnellate di carburante. Ad occuparsene per la società è la Smit, un'azienda olandese, che conferma che serviranno mesi per rimuovere il relitto. Abbiamo sentito il referente in Italia, Max Ighera, sentiamo. Sono arrivati 5 tir dall'Olanda ieri con tutti i macchinari necessari per l'operazione di rimozione del combustibile. Ci sono pompe, valvole, impianti di riscaldamento del combustibile, l'impianto hot tapping, che è quello che permette, di proprietà della Smith, che permette di fare la perforazione delle cisterne e contestualmente, senza avere inquinamento, poter iniettare acqua e rimuovere il carburante, che probabilmente, anche se non abbiamo ancora conferma di questo, potrebbe dover essere preriscaldato. Per cominciare a pompare ci vorranno sicuramente ancora alcuni giorni. Abbiamo una nave cisterna pronta. E grazie a Raffaella Calandra. Il comandante Francesco Schettino ha ammesso un errore di manovra, così scrive intanto il GIP del Tribunale di Grosseto Valeria Montesarchio nel provvedimento con cui ha annullato il fermo nei confronti del comandante, scarcerandolo e disponendo la misura degli arresti domiciliari. Schettino, pur sceso dalla nave, è rimasto alcune ore sugli scogli insieme all'equipaggio, evidenzia inoltre il giudice, secondo il quale non sussiste nessun pericolo di fuga, solo di inquinamento delle prove. Di parere diverso è il procuratore capo di Grosseto, Francesco Verusio, che ha annunciato ricorso contro la scarcerazione e secondo il quale c'è la possibilità che il comandante possa invece fuggire e sottrarsi alle proprie responsabilità. Sentiamo il procuratore intervenuto questa mattina, 24 mattino. Abbiamo motivo per credere che probabilmente c'è la possibilità che lui si possa sottrarre alle sue responsabilità. I reati che abbiamo contestato sono reati molto gravi e prevedono pene molto severe, e considerata la personalità dell'imputato non credo che sia a caso ad aspettare che lo andiamo a prendere magari fra qualche anno per scontare 15 anni di carcere. Perché? Non credo proprio. Che personalità ha trovato nell'incrociarlo, procuratore? Infatti, mi sembra. Me lo qualifichi con un aggettivo? No, non mi faccia dire altro. Scellerato, va, un comportamento inqualificabile e imperdonabile. L'ha trovato pentito, almeno umanamente, oppure no? A me non è sembrata una persona pentita. Dispiaciuto forse per la sua nave e per quello che gli potrà capitare, ma non credo dispiaciuto per quello che ha combinato. E l'inchiesta sulle responsabilità della tragedia intanto si allarga. Potrebbe presto allargarsi l'inchiesta sulle responsabilità del disastro della Costa Concordia. Altri ufficiali e altri uomini della compagnia rischiano di finire tra gli indagati, un'eventualità che il procuratore capo di Grosseto, Francesco Verusio, non esclude. Ora dobbiamo vedere se nella catena di comando si possano ravvisare responsabilità di altre persone che erano comunque tenute a prendere mano la situazione. Sotto la lente degli inquirenti ci sono tutte le comunicazioni avvenute quella sera, i tabulati che svelano le telefonate di Schettino prima e dopo l'impatto, le registrazioni delle conversazioni avvenute in plancia e le dichiarazioni di chi era con il comandante e ne condivideva le mosse. Il secondo e il terzo ufficiale Dimitri Christidis e Silvia Coronica, entrambi sulla scialuppa insieme a Schettino, mentre sulla nave c'erano ancora centinaia di persone. E poi ci sono le consultazioni con i responsabili della compagnia Costa, in particolare con Roberto Ferrarini, responsabile dell'unità di crisi e del controllo flotta, che Schettino sentì per ben 3 volte al telefono prima di dare il tardivo ordine di evacuazione. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torneremo naturalmente ancora sulla vicenda. Ora però voltiamo invece pagina per le proteste invece a Roma. In piazza ci sono i taxisti, andremo più avanti al Circo Massimo e poco fa c'è stata un'incursione al Ministero dell'Economia. Questo mentre il Premier Monti oggi sarà a Londra per convincere Cameron e convincere gli investitori della City. Un appoggio lo ha già incassato dal Financial Times, che in un editoriale ha invitato questa mattina ad aiutare i due Super Mario, riferendosi a Monti e Draghi. E a Downing Street c'è Gerardo Pelosi, buongiorno. Buongiorno a voi. Il Premier Monti è atterrato a Londra alle ore 11, erano le mezzogiorno in Italia, per recarsi direttamente nella sede del Financial Times, dove lo ha ricevuto il direttore Lionel Barber, un omaggio del Presidente del Consiglio al giornale che sembra incoraggiare gli sforzi del Premier italiano. Entrando nella sede del Financial Times, Monti ha detto: convincerò i mercati che l'Italia è solida e affidabile. Dal Financial Times il Premier si recherà all'incontro con David Cameron, una colazione di lavoro, con i temi europei al centro e ovviamente la necessità di coinvolgere i britannici sulla necessità appunto di salvare l'Eurozona. Subito dopo il Premier si recherà alla City per un incontro con gli investitori e poi una lezione alla London School of Economics. Subito dopo, prima della partenza, un incontro con il vice primo ministro Nicholas Clegg e il leader laburista Eddie Miliband. E da Londra è tutto. E grazie anche a Gerardo Pelosi. Il 2012 è iniziato intanto bene per il Presidente del Consiglio dal punto di vista del consenso, è tornato infatti a salire rispetto al mese di dicembre dello scorso anno. Renato Mannheimer, numero uno dell'ISPO, ha riferito ad Affari Italiani che la fiducia in Mario Monti è cresciuta per via del blitz a Cortina e attualmente è tornata ad essere attorno al 50%. Fiducia espressa anche dall'agenzia di rating Fitch, che oggi ha ammesso che Monti ha cominciato bene ridando fiducia e ha aggiunto: l'Italia è troppo grande per fallire. A lanciare l'allarme invece la Banca Mondiale per la brusca frenata dell'economia del 2012, che rischia, dice, di ripercuotersi soprattutto su paesi in via di sviluppo. Secondo le nuove previsioni economiche dell'Istituto, il PIL mondiale crescerà del 2,5% quest'anno, quando la crescita nel 2011 era stata del 2,7%. In borsa Milano in questo istante sulla sostanziale parità, l'indice FTSE MIB perde lo 0,01%. Ma dicevamo, un blitz c'è stato al Ministero dell'Economia e allora sentiamo invece che è successo a Roma da Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Poco dopo le 12 il blitz di una ventina di indignati che, superati gli sbarramenti all'ingresso del Ministero dell'Economia di via 20 settembre, si sono radunati per alcuni minuti nel cortile interno del palazzo. Qui avrebbero urlato slogan con i megafoni ed esposto dei cartelli, quindi lo sgombero da parte della Guardia di Finanza che vigila appunto sul tesoro, sgombero che sarebbe avvenuto senza violenza. Attualmente la manifestazione si è spostata fuori fuori dal Ministero. È un clima dunque dei non più favorevoli quello che sta accompagnando l'inizio della fase 2 del governo Monti, che lo ricordiamo già venerdì varerà in Consiglio dei Ministri un primo pacchetto di liberalizzazioni, fase del rilancio della crescita che si svilupperà quindi attraverso una riforma del mercato del lavoro che permetta di aumentare l'occupazione soprattutto di giovani e donne. Le parti sociali sono state convocate per il prossimo lunedì a Palazzo Chigi, si dovrebbero mettere nero su bianco quelle linee di intervento già esposte dal ministro del welfare Fornero negli incontri della scorsa settimana. CGIL e CISL e UIL si presenteranno con una piattaforma comune che chiede al governo un cambio radicale nella sua politica economica. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta ed è il momento della nostra rubrica sull'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Si dichiara di essere esportatori abituali di auto, esenti quindi dall'applicazione dell'IVA. Invece si vende a clienti italiani e a loro si fa pagare l'imposta tutta intera. Eccolo qui spiegato in due righe il meccanismo attraverso il quale alcune società che commerciano in auto evadono il fisco e riescono a imporsi sul mercato grazie agli sconti che non pagando l'IVA possono permettersi. Il capitano delle Fiamme Gialle, Michele Brunetti. È ritenuto comunque un settore sensibile, molto sensibile, tant'è vero che in questo caso la normativa ci aiuta ed è stata prevista e resa diciamo più aggressiva proprio perché il settore era sensibile, perché qualora la società verificata non dovesse pagare le sanzioni comminate sulla base del nostro verbale, gli acquirenti che sono altri concessionari saranno loro chiamati a rispondere dell'IVA non versata dal proprio fornitore. La normativa sarà anche aggressiva, ma non è riuscita a frenare l'appetito di due imprenditori del settore che proprio ieri sono finiti sotto indagine a Tortona, l'accusa di aver evaso le tasse per 50 milioni di euro. Di fatto la società era evasore totale. I soci hanno presentato una dichiarazione soltanto nell'anno 2008 per importi risolti un paio di decine di migliaia di euro. Poi dal 2008 in poi non hanno più presentato alcuna dichiarazione. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sentite cosa ha svelato un'altra inchiesta. Un'organizzazione criminale specializzata nel pilotare i fallimenti societari. Al centro tre professionisti romani, un avvocato e due commercialisti. Offrivano un servizio chiave in mano, creavano società ad hoc in cui fare transitare i rami sani delle aziende e mettevano a disposizione un nutrito numero di prestanome, reclutati tra parenti e amici, dietro i quali nascondere i passaggi di proprietà. Uno di loro è risultato amministratore di oltre 100 società. Con questo sistema sono state portate al fallimento almeno 9 aziende che avevano accumulato più di 50 milioni di euro di debiti, soprattutto nei confronti dell'erario, ma anche di fornitori e dipendenti che non venivano pagati. 7 le persone finite in carcere, altre 6 agli arresti domiciliari, tra loro il titolare del marchio Pastarito, Giancarlo Vigo, che aveva creato un impero negli anni 90 per poi farlo fallire, secondo l'accusa, affidandone la procedura alla cricca specializzata nella bancarotta. La Pastarito è stata sequestrata assieme con altre 12 aziende poste sotto amministrazione giudiziaria. Monica Ceravolo, Radio 24. Le 13:16 minuti, le notizie di oggi di GR24, la Concordia in bilico, al Giglio interrotti i soccorsi. L'inchiesta intanto potrebbe allargarsi ad altri indagati, mentre il procuratore Radio 24 dice Schettino scellerato potrebbe sottrarsi alle sue responsabilità. Monti a Londra, convincerò i mercati che l'Italia è solida, ha detto al Financial Times. Intanto blitz degli indignati a Roma al Ministero dell'Economia. E tassisti riuniti al Circo Massimo che promettono sarà l'inferno. Il premier ungherese sfida l'Europa, parlerà a Strasburgo per difendere la sua posizione, ne parleremo tra poco. Partiamo invece dai tassisti, nessuna auto bianca a Fiumicino, difficile trovarne a Milano, a Roma al Circo Massimo sono riuniti infatti i tassisti italiani che promettono linea dura. Andiamo a vedere che succede, qual è il clima, Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno, per ora è un clima di attesa qui a Circo Massimo, dove sono radunati da questa mattina migliaia di tassisti da tutta Italia, le strade ai lati sono una distesa di auto bianche parcheggiate, mentre in città è praticamente impossibile trovare un'auto in servizio. Un'assemblea per il momento pacifica seppur vivace, ci sono striscioni, bandiere, qualche lancio di petarde e qualche insulto al governo. Un territorio, una licenza, un turno, ripetono in coro i tassisti in attesa dei loro leader sindacali che in queste ore nel loro parlamentino stanno mettendo presentando appunto un documento da presentare prima a questa assemblea, poi al governo, come base dell'incontro che si svolgerà nel pomeriggio, probabilmente intorno alle 18-19, un secondo incontro dopo quello di ieri che dovrebbe essere decisivo per capire cosa l'esecutivo alla fine farà in tema di liberalizzazione nel settore taxi. Ma intanto i conducenti di lato bianche non arretrano, siamo pronti a scatenare l'inferno, ha detto il presidente di Uritaxi, Loreno Bittarelle. I tassisti però negano divisione al loro interno, in particolare tra romani e napoletani, tra i quali, lo ricordiamo, ieri si era scatenata una rissa. Non ci sono falchi e colombe, dicono, ma solo falchi pronti ad uno sciopero ad oltranza contro le liberalizzazioni e pronti questo pomeriggio a marciare verso Palazzo Chigi. Da Roma è tutto. Grazie ad Alessandra Schepisi. Terzo giorno di sciopero intanto in Sicilia di autotrasportatori e pescatori che chiedono l'abbassamento delle tasse di carburante e le conseguenze anche qui si stanno facendo pesanti. Ad Agrigento sono rimasti aperti solo due distributori di benzina davanti ai quali si sono formate code chilometriche. Presi d'assalto questa mattina anche i supermercati, gli agrigentini temono infatti che i blocchi stradali dei tir proseguano oltranza e che possano esaurirsi le scorte di paste ed alimenti a lunga conservazione. Per motivi di sicurezza è stato chiuso l'ingresso al porto di Palermo. Andiamo invece in Europa, a Strasburgo parlerà infatti oggi il premier ungherese sfidando in qualche modo l'Europa, Gigi Donelli. Sì, effettivamente alle 15 è molto atteso l'intervento di Viktor Orban, il primo ministro ungherese, lo sapete da settimane ormai al centro dell'attenzione europea e non solamente, dopo appunto la costituzione del 1 gennaio scorso. Oggi Orban dovrà spiegare molte cose, in termini economici, le leggi nuove che ha imposto e anche naturalmente il grande tema della libertà di stampa che le leggi appunto sull'editoria in Ungheria hanno ridotto drasticamente. Proprio in queste ore si susseguono di fatto gli inviti da parte dell'Europa a cambiare radicalmente linea. L'ultima è Nelly Kroes, commissaria europea ai media, che ha detto appunto, ha invitato Orban a presentarsi oggi per raccontare un cambiamento, per di fatto chiudere una fase di crisi. Ricordiamo che martedì 24 invece Orban incontrerà Barroso e quindi insomma si aspetta su questo fronte. Ecco Gigi, per raccontare un po' ai nostri ascoltatori quello che è il clima e cosa sta succedendo in Ungheria, diciamo che al centro di tutto questo c'è una radio ungherese che noi abbiamo visto, tu hai visto e che in qualche modo ricorderà molto la nostra, gli nostri ascoltatori. Assolutamente sì, il caso di Klub Radio è emblematico di questa situazione, una radio di informazione, una radio commerciale dunque che vive di pubblicità e quindi ovviamente l'associazione con Radio 24 è assolutamente legittima, una radio che in queste settimane sta perdendo le frequenze. Pensate, la sua colpa è che fa informazione e che l'80% della sua comunicazione è appunto dedicata all'informazione e alla musica. Questo oggi è un problema. Noi siamo andati a Budapest a parlare, a raccontare Club Radio e naturalmente il sistema dell'editoria. Questo fine settimana, seconda parte del reportage sull'Ungheria, racconteremo proprio questa visita. In Ungheria Radio 24 rischierebbe la chiusura, questo per far capire. Assolutamente sì, assolutamente. Sì. E grazie a Gigi Donelli. Noi invece continuiamo ad informarvi, andiamo avanti e parliamo invece della cronaca di quel che è successo questa mattina a Roma. 5 vittime, un agente della Polstrada ferito e questo è il bilancio del grave incidente avvenuto la notte scorsa a Roma. Sul grande raccordo anulare Adriana Fracchia ha intervistato Cinzia Ricciardi, dirigente della Polizia Stradale di Roma. Questa autovettura che era in corsia d'emergenza è stata praticamente investita nella parte posteriore da questo mezzo pesante che trasportava merce alimentari e praticamente i ragazzi sono morti sul colpo e nel frattempo si era appena fermata anche una nostra pattuglia per verificare cosa fosse successo e praticamente sono stati investiti anche i nostri, ma i nostri erano fuori dall'autovettura di servizio, quindi non hanno avuto dei danni gravi, mentre invece l'autovettura dei ragazzi è stata completamente schiacciata ed è stata coinvolta anche la nostra autovettura nel forte tamponamento. È stato fatto un alcol test al conducente, sì, del camion? Risultato negativo a tutti i test a cui è stato sottoposto, quindi stiamo cercando di accertare quali sono le motivazioni che lo hanno portato a sbandare sulla corsia di emergenza, se sono di natura meccanica, distrazione, ora vedremo un pochino perché l'indagine è appena stata aperta, il magistrato è informato e quindi poi procederà nei confronti di questa persona. Nessun italiano coinvolto nell'incidente in Etiopia, questa mattina invece ha rettificato la Farnesina. L'agguato è avvenuto nella tarda serata di lunedì nella regione di Afar, al confine con l'Eritrea. Uomini armati, questa la ricostruzione fornita dal governo etiope, entrati nel paese probabilmente dall'Eritrea, dove ha sede il Fronte di Liberazione Oromo, avrebbero preso di mira due gruppi composti in totale da 22 persone. 5 i turisti uccisi, 2 tedeschi, 2 ungheresi ed 1 austriaco, mentre 2 etiopi sarebbero stati rapiti. L'Eritrea però respinge tutte le accuse e parla di menzogna patetica. Non è la prima volta però che nella regione di Afar si verificano simili agguati. Nel 2007 vennero uccisi 5 europei e rapiti 13 etiopi. In quella occasione tutti gli ostaggi vennero rilasciati, anche se alcuni di loro rimasero nelle mani dei rapitori per più di un mese. Nel 2008 un altro tentativo di rapimento ai danni di turisti francesi. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Wikipedia è in sciopero e ha oscurato la propria versione inglese. L'enciclopedia gratuita online guida una protesta contro 2 leggi che, secondo il popolo della rete e molte aziende web, minaccerebbe la libertà su internet. Una campagna che ha anche la sua canzone. Lia Kaufman è una giovane cantante americana. Tra il 2007 e il 2008 aveva scritto e cantato 2 hit a sostegno della campagna di Obama per le presidenziali: Ho preso una cotta per Obama e Obama Girl. Oggi la Kaufman canta Firewall, la colonna sonora di una campagna contro 2 provvedimenti in discussione al Congresso americano che, supportati dall'industria del cinema e della musica, tentano di colpire la pirateria online. Il popolo della rete e molte aziende della web economy protestano perché, se le leggi fossero approvate, queste potrebbero minacciare la libertà di espressione e la creatività, proprio quegli ingredienti che hanno fatto nascere migliaia di aziende e creato milioni di posti di lavoro in tutti gli Stati Uniti. In segno di protesta, Wikipedia oscurerà la pagina in inglese, non era mai accaduto, e anche Google metterà un messaggio nella sua homepage americana. Obama sta col popolo della rete e ha promesso che non firmerà leggi di questo genere, ma la battaglia sarà ancora molto lunga. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E c'è la notizia dell'ultima ora: l'ambasciata turca a Baghdad è stata attaccata con un razzo, a scriverlo la CNN turca, secondo cui il ministro degli esteri turco avrebbe già chiamato l'ambasciatore turco per avere informazioni sull'attacco. Informazioni ulteriori che per ora non ci sono, naturalmente vi terremo informati. Mario Merelli, uno dei più importanti protagonisti italiani delle scalate sugli 8000, è morto questa mattina precipitando, sembra, da una parete di Punta Skies, una vetta di oltre 3000 metri a cui si arriva passando dallo storico rifugio Baroni al Brunone, nel comune di Valbondione in Val Seriana. Il suo compagno di scalata Paolo Balotti è rimasto incolume. Merelli, 49 anni, nella sua ventennale carriera aveva conquistato una decina di 8000, tra cui 2 volte l'Everest. Siamo alla pagina sportiva con il calcio. L'Inter ancora sulle tracce di Tevez, il Milan di nuovo in campo in Coppa Italia. Diverso, insomma, il dopo derby delle milanesi e tutti gli occhi sono puntati sui campioni d'Italia. Ci mancava solo lo stop di Boateng, che starà fuori per un mese causa lesione muscolare. Per il Milan, turbato dal caso Pato, scosso dal lungo corteggiamento senza frutto a Tevez e provato dal KO nel derby, il doppio incrocio col Novara, stasera in Coppa Italia, a San Siro, domenica in Piemonte in campionato, non è una semplice formalità. Bisogna ripartire e ripartire forti per ritrovare certezze e fugare i dubbi lasciati da una settimana da tregenda. Uno su tutti, la convivenza tra Ibra e il Pape. Davvero brutto anatroccolo nel derby. Allegri fa scattare la difesa d'ufficio. Io di quello che ha fatto Pato domenica sono soddisfatto e sono sicuro che presto ritroverà il gol. Intanto, per rimpolpare il centrocampo, dal Genoa torna il talentino Merkel. Che sia lui alla fine il miglior acquisto invernale del diavolo? Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E naturalmente la pagina sportiva di Radio 24 alle 14 a tempo di sport. Nel frattempo con GR24 invece ci fermiamo qui. Roberto Scaltritti in regia, da Anna Migliorati buona giornata. A GR24 vi aspetta alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.